Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Polifunzionalità è una delle nuove parole d'ordine in fatto di progettazione intelligente di quartieri, di centri direzionali e persino di siti industriali. Parliamo di edifici che sono pensati per assolvere all'interno dello stesso spazio funzioni completamente diverse, ma parliamo anche di edifici che più semplicemente ospitano al loro interno un mix di attività diverse, dalla residenza ai servizi fino alle attività produttive. La caratteristica più evidente di questo approccio è la possibilità di ridurre gli spostamenti, avvicinando per esempio i servizi ai luoghi in cui la gente risiede o lavora, di ridurre i consumi energetici grazie a uno sfruttamento più intensivo degli spazi per più ore al giorno, che permette di ammortizzare meglio i costi anche energetici suddividendoli su più attività. E poi ci sono anche altri aspetti di cui parliamo subito con Donatella Bollani, direttrice della rivista di architettura Archetipo. Benvenuta Donatella. Grazie a voi per l'invito. Ecco Donatella, qual è l'idea di fondo da cui nascono poi questi progetti? Beh, forse l'idea è quella di pensare un edificio come un generatore, diciamo, di funzioni e di attività che attivino un processo virtuoso al suo interno, no? E parlo di edifici nuovi, ad esempio il Salewa Headquarter. Che si trova dove? A Bolzano, Bolzano Sud, è un edificio aziendale, no? Ma è stato pensato per, come dire, fungere proprio da facilitatore, diciamo, e attuatore di una serie di meccanismi che dovrebbero portare quest'area, che è un'area in realtà ex industriale, sulla quale invece insistono, come dire, delle politiche di sviluppo interessanti anche in termini ambientali. E l'idea è quella di contenere una serie di funzioni, sì, di servizio agli dipendenti, ma in realtà la parete di roccia, ad esempio, un bar-ristorante nel parco dell'azienda, in realtà sono di servizio a tutte le alle aziende anche e a chi voglia visitare, insomma, l'azienda o i dintorni, e alla fiera, perché in realtà molto vicino è, cioè, la fiera. Solo per farti capire, loro hanno questo bivac, lo chiamano, che è un ristorantino che hanno posizionato al parco. Il ristorantino è di fronte alla parete di roccia, che è bellissima. L'edificio ha questa parete di roccia che è una delle più belle d'Europa, costruita, perché l'azienda produce abbigliamento d'alpinismo, quindi certo, okay. Certo. Alla sera è diventato uso per i bolzanini recarsi a prendere la birretta, l'aperitivo, e guardare gli scalatori che fanno i loro esercizi. Ha generato un tale indotto di traffico e presenza in un ex quartiere industriale che adesso, come dire, motiva sicuramente anche la pubblica amministrazione a fare delle considerazioni diverse, no? Ma cito questo esempio, ma citerei anche anche se la logica è chiaramente molto diversa, lo stadio della Juventus. In questo caso lo stadio della Juventus in realtà è pensato come un edificio pubblico, cioè sì, è un impianto sportivo, ma in realtà all'interno hai una serie di negozi con un centro commerciale molto su modello britannico anglosassone, una parte dedicata alla ristorazione che però vive durante tutto l'anno, cioè non viene attivata, diciamo, soltanto nel momento di fruizione delle tifoserie o di eventi sportivi particolari. In quel momento ci sarà il picco, diciamo, di traffico, esatto, da quelle parti, ma non necessariamente resta un deserto diciamo, in tutti gli altri momenti. È di supporto e di servizio a tutta l'area urbana, quindi è un centro, diciamo, pubblico in cui puoi avere una serie di funzioni più o meno, come dire, commerciali, ma anche non solo commerciali, e poi diventa anche arena sportiva piuttosto che spazio per i concerti, piuttosto che, quindi questo, diciamo, che è il più innovativo degli impianti costruiti in Italia al momento. Ecco, come dire, da fruitore di concerti, per esempio, mi è capitato mille volte di andare a sentire un concerto, sì, non so, al palazzetto dello sport di turno, in cui l'audio però era assolutamente terribile. Non c'è, per esempio, qualche caso di palazzetto dello sport che è stato progettato già originalmente per potersi trasformare agevolmente in un auditorium, o insomma nessuno fa come da noi che si fanno i concerti negli stadi? Beh, non credo, no? No, in realtà gli edifici che erano stati realizzati per le Olimpiadi di Torino, cito l'Oval per capirci, che era il più famoso, era stato proprio pensato per essere poi rifunzionalizzato, ma con pochissimi interventi, la riduzione delle platee eccetera, e appunto destinato ad attività e a eventi anche di carattere musicale, mi hanno detto, che adesso gestisce questi impianti, che è molto difficile, gestire una serie di attività che coprano i costi, perché sono mediamente impianti molto costosi. Calendarizzare un programma annuale che riconsenta di coprire i costi è molto complicato. Ma quindi in generale, secondo te, l'utilizzo multiplo degli spazi oggi non è molto incoraggiato? Non è che non sia molto incoraggiato, lo è, ma in ambiti, diciamo, mediamente pubblici o privati, ove il privato, diciamo, con uno spirito così da mecenato, cioè con la volontà che è dipendente dalla sua, come dire, intenzionalità di aprirsi all'intorno, decide che nel suo edificio devono starci delle funzioni, e a volte anche per scopi commerciali, delle funzioni che siano attrattive rispetto all'area. Succede spesso, per varie ragioni penso, che questa missione venga svolta molto dagli edifici recuperati. Beh, allora è banale da dirsi, perché è una cosa banale, il concetto è banalissimo, no? Mentre una volta si limitavano a recuperare gli immobili, a rifunzionalizzarli, a ricollocarli sul mercato, oggi grandi investitori hanno questi programmi, loro li chiamano programmi speciali, ove di fianco ai 3-4 edifici di carattere terziario, che quindi cubano magari una presenza di 600-700 persone, inseriscono sempre un edificio che contiene, diciamo, una serie di funzioni: il market, l'asilo per i bambini, un ristorante, questa roba che è banalissima, perché veramente, però loro te la vendono come un, come dire, un'idea straordinaria, e l'idea di avere già, come dire, nell'acquisto degli spazi, nelle metrature che tu compri o affitti, una serie di benefit, di plus che non avresti se vai ad allocarti in un'altra zona. Sostanzialmente. È anche un elemento di razionalità, comunque, mi sembra, no? Che semplifica la vita oggettivamente. No, è assolutamente anche spendibile, poi giustamente in termini commerciali e di posizionamento sul mercato. Questo se lo stanno facendo tutti, diciamo, gli investitori, gli sviluppatori immobiliari. Le pubbliche amministrazioni non sono reticenti la maggior parte delle volte, mi raccontano, anzi, sono molto interessate, no? Alla possibilità di dialogare con chi ha un approccio al territorio di questa natura, nonostante si stia facendo un'operazione di carattere commerciale. Grazie, Donatella Bollani. Prego, grazie a te. È tutto, a domani.